abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzi, l'adrenalina cresce. Domani l'Italia va in campo. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, allora sarà il caso di, insomma, andare oggi, secondo me, con grande piacere sull'istituzionale e con il ministro dello sport Luca Lotti, che io saluto. Buongiorno ministro e grazie. Buongiorno, buongiorno a voi, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Come dice, insomma, tutta la nazionale, da Ventura, Michele Uva, al presidente della Federcalcio, tutti insieme per andare al mondiale, sarà il caso anche di fare, beh, nello sport non si fanno gli auguri, si fa l'in bocca al lupo o l'inculo alla balena, mi perdoni, però secondo me serve questo, insomma, questo abbrivio istituzionale verso Italia-Svezia. Serve l'in bocca al lupo, serve l'incolumina, serve non gufare soprattutto, quindi vorrei subito evitare di passare per il gufo di turno. Serve sostenere i nostri ragazzi, serve essere tutti insieme a tifare Italia, e questo credo che sarà l'obiettivo principale di tutti gli italiani che amano il calcio e che amano la nazionale. Sì, quindi ovviamente in bocca al lupo, non capisco chi possa gufare contro nazionale, in tutta onestà. No, gufare vuol dire portare male, quindi... Ah no, ho capito, ok, in chiaro. In questo caso è una gufata, e uno può dire, hai visto, il ministro ha detto che ce la facciamo, e quindi... No, non scherziamo. No, massimo rispetto anche per la scaramanzia, che sappiamo che ha un ruolo importante anche in queste cose. Esatto, quindi toccate ciò che volete, mettete le mani dove volete, ma... Già fatto. Già fatto. Ministro, quello è il vantaggio della radio, che ognuno può fare i gesti che considera più opportuni senza appunto. Perfetto. Allora siamo in tre, almeno in tre, diciamo. Perfetto. siamo in molti di più, ma comunque vai Pier. No, io volevo sapere qualcosa di Beppe Vio, nel senso che poi ci siamo quasi e diventano normali queste vittorie, questi successi, perché ci ha abituato benissimo, ma insomma la sua storia è di ieri, è l'ennesima pagina di una carriera leggendaria da mille punti di vista, prima di tutto come atleta. Abbiamo fatto una bellissima iniziativa recentemente con Pancalli e l'obiettivo è proprio sottolineare l'aspetto degli atleti. Ormai sai che anche il linguaggio ovviamente è importante. È un atleta straordinario, leggendario, vorrei che il ministro insomma dicesse qualcosa, perché ci inorgoglisce, perché è un esempio per tutti noi. Ma guardate, sono appena stato a salutare tutti i ragazzi della nazionale maschile e femminile che sono impegnati in questi mondiali. E cosa dire, grande campionessa Bebe, grande donna, grande sportiva, ma tutti questi ragazzi stanno dimostrando con le loro medaglie, con i loro risultati, di essere dei grandi campioni. Dei grandi campioni, prima ancora dei grandi uomini e delle grandi donne, perché sono degli esempi per noi, degli esempi non solo sportivi ma anche umani, e questo ci fa particolarmente piacere e ci rende orgogliosi dei nostri atleti. Ripeto, poi vengono le medaglie, siamo quasi troppo abituati alle medaglie, ma ovviamente non ci abitueremo mai fino in fondo, anzi ho detto ad Andrea, a Loredana e a Beppe che sabato li aspetta ancora un'altra medaglia a squadre, sempre per tornare ai gufi di cui sopra, ma insomma quello che conta in questo è un aspetto ancora più importante, che è l'esempio che rappresentano per tutte quelle persone che magari oggi vivono un momento particolare della loro vita, e vedendo questi ragazzi e queste ragazze in pedana possono guardare il futuro in maniera diversa. Loro sanno che questo è un altro obiettivo al pari delle medaglie, e lo stanno interpretando alla grande. Questa è la vittoria più importante anche per le istituzioni, assolutamente, che insieme collaborano, che insieme, mi fa piacere ricordare che abbiamo organizzato anche noi insieme al comitato italiano paralimpico e insieme alla federazione della scherma questo mondiale in Italia. Lo abbiamo fortemente voluto, fortemente supportato e fortemente organizzato, ma ripeto, quello che conta è il messaggio che ci danno questi atleti, da Bebe come principale sponsor e principale faccia di questo bellissimo sport, a tutti gli altri ragazzi. Ripeto, non li cito tutti, ma vale per tutti. No, ma sentendo questo vernacolo, sentendo parlare di medaglie che non sono mai troppe, mi viene in mente una vecchia frase di un nostro campione, di Aldo Montano, che ad Atene 2004 con la medaglia al collo disse: le patate fritte non sono mai troppe. Questo mi disse, questo esatto, mi disse Montano. Ma io vorrei posso sapere una cosa, un momento istituzionale, perché c'è un ministro dello sport e c'è tanto sport nella legge che una volta si chiamava finanziaria, adesso è la legge di stabilità. Le volevo chiedere due cose: una sulla ripartizione dei diritti, che mi sembra un tema nel quale, insomma, leggiamo su tutti i giornali, se quindi si va verso una strada, diciamo, di maggiore equità fra club grandi e club piccoli. E la seconda cosa invece mi sembrava interessante è il pacchetto sport con gli sgravi fiscali per chi vuole aprire una palestra, per chi vuole fare attività sportive. Sono queste le due cose più interessanti che ci sono? Beh, intanto c'è tanto sport per la prima volta nella storia del nostro paese, c'è una considerazione importante per lo sport, al mondo dello sport. Ci sono più di 40 milioni di euro dedicati esclusivamente a un pacchetto che riguarda appunto lo sport. Di notizie ce ne sono tantissime. Una è quella, per esempio, del contributo sull'acquisto per tutti gli atleti paralimpici alle carrozzine, alle handbike. È una cosa che può sembrare scontata, ma riuscire a dare un contributo e dare dei finanziamenti per acquistare in toto gli strumenti per poter fare sport, io credo che sia la cosa più importante che abbiamo fatto insieme a Luca Pancalli e insieme a tutto il Movimento Paralimpico Italiano. E ci tengo a sottolinearlo. C'è l'innalzamento della no tax area sui dilettanti. Tutto il mondo dei dilettanti fino a ieri aveva una tassa, un'area no tax area di 7.500 euro l'anno. L'abbiamo portata a 10.000 euro. Altra cosa per tutto lo sport e per tutto il mondo dei dilettanti fondamentale. Poi c'è anche una riflessione sulle società lucrative, che non è un cambio, che non è un modo per cambiare l'atteggiamento dello sport o per uccidere il mondo dilettante, è un modo per far capire che esiste una situazione diversa e vogliamo registrarla, vogliamo normarla. Siamo disponibili alla discussione, sono le idee che abbiamo messo in finanziaria e in commissione ne stiamo parlando e ne parleremo aperti con gli enti di promozione, che so si sono un po' preoccupati, ma siamo disponibili a discutere, a spiegare la ratio di questo provvedimento. E c'è, come ha detto lei, Pardo, la riorganizzazione e il tagliando alla legge Melandri, che non è tanto un riequilibrio esclusivo, è un modo di rivedere i criteri e di rendergli un pochino più non solo equilibrati ma misurabili, certi e misurabili. Noi abbiamo su questo presentato una nostra proposta, abbiamo sempre detto che la nostra proposta è aperta alla Lega, qualora la Lega riesca a dotarsi finalmente di una nuova governance, finalmente di un management che è pronto a dire: ok, il mio campionato vale 1 miliardo, voglio farlo valere 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, perché lo vale, ma deve essere presentato, spiegato e valorizzato così. E allora siamo pronti a dire come si modificano in parte questi criteri. Abbiamo messo la nostra idea in finanziaria, lo abbiamo fatto dopo che per anni si è discusso e si è litigato su questo, abbiamo messo la parola fine, ci confronteremo ovviamente con tutti, siamo pronti anche a modificare qualora servano alcuni correttivi, però si è fatto un passo dal quale non si torna indietro nell'interesse del calcio italiano, certo, nell'interesse della valorizzazione del calcio italiano. Anche perché, Ministro, sappiamo bene quanto valga il calcio italiano dal punto di vista economico ed è inutile nasconderci dietro un dito. Un'ultima cosa. Questo, perdonatemi, non voglio disturbarvi troppo, ma tutto questo si inserisce accanto a un altro provvedimento, che è quello sugli stadi, sulla riorganizzazione degli stadi e sulla norma che abbiamo inserito nella cosiddetta manovrina giugno per aiutare, snellire, velocizzare tutte quelle procedure per ristrutturare gli stadi. Perché è chiaro che lo spettacolo deve essere più bello, deve essere più equo, le partite devono avere determinate caratteristiche, ma devono essere anche giocate partite in stadi. Ma certo, ma è chiaro, dobbiamo entrare nell'era moderna, Ministro. Questo... No, volevo solo legare a... No, ma è chiaro, dobbiamo entrare nell'era moderna. Io le chiedo ancora una cosa, ed è l'ultima, visto che siamo in tema di in bocca al lupo, in culo alla balena, eccetera, uno per Dovizioso e magari uno per il Milan, di cui so che credo di non svelare nulla, è tifoso. Allora, non tocchiamo tasti in parte dolenti. facciamoli in bocca no, tocchiamoli. Perché no? No, tocchiamo ferro intanto, per Dovizioso, va bene, così almeno mettiamo le mani sul ferro. Sì, Dovizioso e la Ducati, ministro. Ok, giustamente, Dovizioso e la Ducati, in bocca al lupo e va benissimo. Sul Milan, il resto istituzionale. Sono ovviamente un tifoso, perché il tifo rimane da piccolo fino a, bravo, ai ruoli istituzionali che tu ricoprerai in futuro. Un si cambia il tifo, un si cambia la mamma. Questo mai, la maglia rimane sempre quella e non si cambia. Faccio in bocca al lupo ovviamente anche a Vincenzo Montella, perché è un bravo allenatore, io lo stimo, è un amico e secondo me sta anche facendo bene al Milan. I risultati sono convinto arriveranno. Va bene. Qui tutti i milanisti si toccheranno insomma il ferro che vogliono e va bene così. Speriamo anche lì di fare veramente l'in bocca al lupo e di non gufare in negativo. Grazie ministro, grazie, a presto. Grazie Luca Lotti, grazie ministro dello sport. Grazie davvero. Ciao. Allora 800240024, ripartiamo subito dopo il traffico. Stalipardo, sto qua. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. Da parte nostra c'è grande volontà di arrivarci e di giocarcelo e viverlo questo mondiale. Sapevamo un anno e mezzo fa che al 99% il nostro percorso sarebbe stato questo e saremo pronti con grande equilibrio, con grande rispetto e consapevolezza della difficoltà di una partita, di uno scontro diretto e dell'affrontare comunque un'ottima squadra, al che ne dicono tanti fuori. Conta assolutamente passare il turno e non molto in che maniera lo si passerà, però poi si passerà attraverso una prestazione e la prestazione la fa il campo. È una partita di calcio, non lo dico per sminuire l'impegno, ma lo dico per sminuire tutto quello che sono le cose extra calcistiche. Dunque, questi che avete sentito sono nell'ordine Chiellini e De Rossi che hanno parlato ieri, però abbiamo sentito il ministro Lotti, abbiamo chiacchierato, però la notizia di oggi è un'altra. Zaza non partirà per la Svezia, quindi c'è una sorta di rivoluzione in atto, non partirà per la Svezia perché è infortunato. Riacutizzarsi del problema al ginocchio, dunque si tratta di cambiare formazione, era uno degli argomenti più gettonati. Invito anche gli ascoltatori 800240024, ovviamente Pierluigi Pardo è con noi di nuovo. Certo. Eccolo. Eccoci qua. Eccolo. Dico, c'è una certa sfiga, diciamo. Sì, un briciolo. Sfiga. Si era deciso per Zaza immobile, adesso si tratta di cambiare i piani, torna di attualità il discorso Insigne oppure Belotti oppure non lo so. C'è Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Che succede da quelle parti a Coverciano? Ma guarda, diciamo che fino a stamattina aveva provato ancora Zaza, poi dopo questo problema lo ha messo fuori causa, ma con Zaza in questi tre giorni ha sempre provato Eder come appunto prima alternativa all'attaccante della Valencia. Quindi, stando alle prove, potrebbe anche giocare Der dal primo minuto. Poi però bisognerà vedere anche, diciamo, il fattore psicologico, chiamiamolo così, schierare subito la carta Belotti oppure giocare con Insigne che gira attorno a Immobile. E credo che proprio in queste ore ci staranno pensando molto Ventura e il suo staff. Ragazzi, Mirko Graziano per Luigi Pardo, voi che siete bravi, spiegatemi perché Insigne non potrebbe giocare con Immobile come ha fatto almeno un milione di volte dal Pescara in giù e in su. Cioè, io sinceramente questo non lo capisco, Pier. No, ma Insigne può giocare con Immobile. Non è, per me sì, il 3-5-2 non è esattamente, diciamo, il suo habitat naturale, nel quale si inserisce meglio, questo è indiscutibile. Penso che lo sappia anche lui, la scelta è di Ventura. Io ripeto, c'è un prima e un dopo questa doppia sfida fra Italia e Svezia. Bisogna passare questa sfida e bisogna, per passare questa sfida bisogna essere, bisogna fare due buone partite, non bisogna fare niente di eccezionale. Insigne è un grande talento, sì. E io spero che, spero, sono sicuro che se le cose vanno bene contro, contro la Svezia, poi si debba mettere un punto e ragionare sugli scenari, fare tutta una serie di valutazioni tattiche su quello che abbiamo, che non è poco, non è poco. No. E costruire una squadra secondo me adatta al talento che abbiamo. Insigne secondo me è una delle, delle cose più preziose che abbiamo di questa squadra, sì. Però in questo momento, ripeto, se Eder è più pronto per quel tipo di ruolo, per quel tipo di situazione, la seconda punta, non starei adesso a fare la rivoluzione preventiva. No, rinunciare a Insigne fa male, perché il talento più prezioso che abbiamo è quello che deve vestire la maglia numero 10, perché è quello che si avvicina di più alla storia dei numeri 10 del nostro calcio. Si fa per parlare, è chiaro, non è il suo habitat naturale questo tipo di modulo, però in questo momento si fa male appunto Zaza, che tra l'altro sulla coppia Immobile Zaza parliamone. Torno a non capire perché debba giocare Eder e non il giocatore del Napoli. Mirko, hai qualche idea? No, guarda, io sono d'accordo con Pierre. Nel 3-5-2 Insigne non è certo la miglior carta là davanti, al di là del talento. È un giocatore che si esprime bene in un determinato contesto. Non è Messi, secondo me, Insigne. È un grande talento, un ottimo giocatore che però finora ha dimostrato di dare il massimo, di esprimersi bene solo con un determinato tipo di gioco, ben organizzato, ben memorizzato, con meccanismi andati a memoria dopo lunghe sedute. In nazionale questo non è possibile. Non è neanche possibile, sì. Non è possibile. E quindi non dimentichiamoci che lo stesso Conte nel 2016, quando decise di optare con decisione per il 3-5-2, pur avendo 20-25 giorni di preparazione a disposizione, quindi avere la squadra a disposizione per un lungo periodo, non ha mai puntato su Insigne. Io sono d'accordo in questo senso con Pierre, non è momento di esperimenti, è momento di andare a fare due partite normali da Italia, e se l'Italia gioca in maniera normale, concentrata e con il giusto atteggiamento, insomma, è certo in grado di eliminare questa azione. Senti, cosa dice l'ufficio Facce, per dirlo alla Beppe Viola? No, l'ufficio Facce è un buon ufficio in questo momento, nel senso che io ho visto soprattutto i senatori, mi sono soffermato soprattutto sui senatori, perché saranno loro a tirare la carretta in questa situazione, dovranno essere assolutamente loro, e ho visto delle belle facce, ho visto Chiellini molto molto motivato, per fortuna tocchiamo ferro, per fortuna Chiellini sta bene, perché Chiellini in questo momento è uno dei 3-4 difensori più forti al mondo, è un trascinatore là dietro. Ho visto De Rossi con la faccia giusta, ho visto Buffon molto concentrato, e insomma io credo che questi giocatori non ci tradiranno, e sono questi che non devono tradire. No, questo è chiaro. Abbiamo sentito De Rossi prima, ha parlato come un libro stampato, come parliamo noi, cioè ci sono queste due partite, le portiamo a casa esatto, il mondiale, poi vediamo. Esatto. Ma è così, in realtà è così, è molto banale, ma è così. Bisogna portare a casa la qualificazione e poi si parla d'altro. Certo, chiaro. Grazie Mirko. Grazie ciao, a voi. Ciao, buon lavoro. Ciao. Pier, sentiamo Matteo. 800 24 00 24, perché adesso penso si aprirà il sondaggione per il posto lasciato libero da Zaza, anche se insomma la notizia è questa: Zaza non partirà per la Svezia, poi al ritorno vediamo, con ogni probabilità giocherà Eder. Matteo. Io penso che Ventura abbia un minimo di timore e si sia coperto mettendo i tre là di dietro, che comunque danno ampie garanzie, hanno fermato la Spagna, gli europei, e là davanti spera che qualcuno butti dentro il pallone. Purtroppo questo modulo non può prevedere Insigne, purtroppo ci servirà Eder, che è più, diciamo, duttile per questo modulo. Se giochi col 3-5-2, ahimè, Insigne non lo vedo titolare, quindi deve affidarsi a gente, da dei gregari, e poi ripeto, secondo me un minimo di timore. Lui è partito dalla certezza dei tre dietro, ha detto intanto non prendo gol, poi qualcosa succederà. No, ma questo è evidente, anche perché insomma è il modulo che è stato così scelto dai senatori, e anche questo è un dato di fatto, anche questo è è cronaca, anche questa è cronaca. Poi Pierluigi diceva giustamente: perché non far ballare Insigne intorno ai mobili, questo non lo so, ma fa niente, siamo alle quisquiglie, no? Come direbbe Totò. Sì, siamo alle quisquiglie, siamo a, secondo me, ti ripeto, bisogna passare questo turno, e per passare questo turno bisogna affidarsi alle nostre certezze. Quindi io trovo che l'eventuale scelta, diciamo, un po' suggerita da parte dei senatori di quel tipo di modulo non è il massimo dal punto di vista del modus, dal punto di vista della procedura, ma sì, dal punto di vista pratico ci sta, nel senso che ci sono delle occasioni in cui l'esperienza dei giocatori più importanti di una squadra può essere molto, molto importante. Beh, ma poi ti rendi conto, però, secondo me, poi però secondo me da martedì sera, se tutto andrà come sogniamo e come speriamo e come è logico che sia, cito i miei amici Niccolò Contessa, i cani, la scena indie romana, vabbè, come è logico che sia, se tutto va come deve andare, poi da martedì dobbiamo, secondo me, dobbiamo, non noi, ma sì, certo, loro signori, deve lavorare su delle soluzioni, perché per esempio adesso è stato convocato Giorginio è un giocatore che sappiamo può essere molto utile, ma inserito in un certo tipo di contesto, cioè bisogna fare veramente una valutazione molto seria e molto serena, perché a quel punto avremo 8 mesi di tutto quello che ci può essere utile al mondiale, certo. Dal CT agli attaccanti, se vuoi tiriamo il cassettino su Balotelli, anche se secondo me Balotelli in questo momento presenta ancora troppe incognite in relazione al talento che ha per poter diventare utile, però voglio dirti, secondo me, se noi passiamo questo turno, poi dal 14 novembre in poi si lavora su una squadra, il modo migliore per arrivare al mondiale, questo è evidente. Per Luigi è altrettanto evidente che ci sono moltissimi giocatori, da tutti quelli della difesa allo stesso De Rossi eccetera, che sono che potrebbero essere all'ultimo ballo, all'ultima esperienza con questo playoff contro la Svezia. Giovanni da Ragusa, buongiorno. Sì, buon pomeriggio Carlo. Salve. Allora, io spero, mi riallaccio alle parole del ministro dello sport, che non ci siano gufi. Non ci siano, scusi, gufi? No, ma gufi no, non credo. In questo, in questo caso mi sembra difficile, Giovanni. Tra l'altro vedrò la partita vicino a Ragusa, perché domani vado per il libro lì, quindi sarà, sì? Insomma, sarà una grande. È ovvio, quindi dal profondo sud, insomma, dove la passione azzurra è fortissima. Sì. No, prego, non volevo interrompere, però prego. Io spero che i tifosi delle squadre più popolari, i tifosi del Milan, dell'Inter, della Juve, del Napoli, tifano tutti compatti per la nazionale. Forza Italia a tutto spiano. Non ho grandi dubbi in realtà su questo, anche perché se no quest'estate chi li guarda i campionati del mondo? Non sto parlando di diritti televisivi, abbiamo parlato con il ministro Lotti, lo rifaremo, è chiaro che l'abbiamo fatto anche ieri con Berinazzo, i diritti del mondiale sono lì sul tavolo e si tratta di aspettare e di capire se il ministro è essenzialmente cercare nei limiti del possibile di accantonare per qualche ora, perché ormai sono una questione di ore, diciamo le polemiche, le critiche, le rivalità, i campanili. Ma lo do per scontato, lo do abbastanza per scontato. Il nostro paese, no? Il nostro paese è bello anche per i campanili. Assolutamente. È bello anche per la diversità, è bello anche perché ci sono Livorno e Pisa, lo faccio per esempio. Ma è chiaro, ma è chiaro. Le ricette cambiano 10 grammi, però ecco. Però a chi potrebbe giovare un mondiale senza l'Italia, anche essendo... La risposta è chi potrebbe giovare agli svedesi, quindi agli svedesi potrebbe giovare un signori Ikea con le brugole del 12, esatto, come dice Grosetti. Esatto. Giuseppe, buongiorno, poi ci fermiamo per la borsa. Buongiorno Giuseppe. Salve, buongiorno. Dica. Io volevo fare un intervento in merito a Insigne, che io seguo dai tempi della primavera del Napoli. Io sono campano, vivo in Sicilia. Io ho seguito Insigne molto a Foggia e ricordo lì quando giocava con Sau, con Zeman. Lui è sempre stato abituato a giocare, prima con Zeman a Foggia e poi a Pescara, certo. L'ho ritrovato. Dico, lui è stato sempre abituato a giocare largo a sinistra, è proprio una sua propensione naturale, lui riesce a fare questo taglio interno e poi a dare il calcio sul palo lungo del portiere, proprio una sua caratteristica. Lui purtroppo con l'attaccante prima punta non riesce a girare con grande facilità, fa fatica perché nello stretto non ha i tempi, gli spazi per potersi poi allargare, stringere con la facilità che ha nel Napoli. Questo è un fatto tecnico, mi ricorda un po' tecnico Signori, per concludere. Signori non riusciva a giocare da solo dietro Casiraghi, aveva bisogno di Rambaudi perché anche gli allargava il gioco dall'altra parte, e lui riusciva comunque a svariare sul fronte di sinistra e poi a convergere per calciare. Quindi sono calciatori abituati a giocare a tre, c'è poco da fare. Ora, no, perché è anche un limite questo, se vogliamo, perché un grande talento deve, secondo me, abituarsi a giocare in ogni tipo di situazione, non deve esserci una situazione specifica senza la quale allora io non ce la faccio. Ci fermiamo per la borsa, torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, anche a 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Primo pensiero era due belle partite, non facile, ma secondo me per tutte e due una partita difficile. Svezia che farà tutto per passare, Italia lo stesso cosa, ma secondo me è più importante due belle partite e danno 200% ogni partita, è come due finali. Però Svezia oggi è, se vince o perde, le reazioni non sono uguali quando c'ero io. Per mio ego è normale, quando gioco io siamo più forti, e senza di me meno, ma secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno passato un buon gruppo. Poi un gruppo difficile con Olanda, Francia, non erano partite facili. Cioè, cosa c'è di più rock di Ibra su Come As You Are dei Nirvana? Con pardon Pierluigi Pardo, mamma mia. Nirvana, ma poi quanto mi manca Ibra? Posso non me ne parlare, guarda. Posso dire una cosa? Ibra, intervistato da Sky in esclusiva, questo è giusto dirlo e citarlo, certo, però al di là di tutto ci manca da morire. E lo vorremmo vedere in campo a costo di essere tacciati di autolesionismo. Campo non voglio vederlo, meglio Svezia senza Ibra, sì, possiamo aspettare in grande serenità. Però è bellissimo il richiamo al suo ego, alla sua autonomia, un giocatore. A me sarebbe piaciuto rivederlo in Italia, e mi sarebbe piaciuto, l'ho detto mille volte, vederlo a Napoli, vederlo a Roma, vederlo in una... perché lui ha sempre un po' flirtato, secondo me lui questa voglia qui... Ma quel treno è passato, io credo, speriamo, lui ha ancora contratto con lo United, speriamo che di rivederlo ancora in campo per qualche partita, poi il tassametro corre anche per lui, Pier. Sì, però Jennifer Wegerup, che è la sua biografa, tra l'altro parla un italiano migliore del mio, ci ha sempre raccontato che lui ha avuto dentro di sé, al di là di un legame speciale soprattutto col Milan, tra le tre squadre italiane con le quali ha giocato, sempre un po' questo tarlo di aver apprezzato Roma e Napoli come città, ma di non esserci poi alla fine mai finito, perché non c'erano probabilmente neanche i budget per le condizioni. Però secondo me sarebbe stato, per quello che è il suo carattere, per quello che è il suo essere controcorrente, per lo spirito che Ibra ha, è un'esperienza che l'avrebbe arricchito e che avrebbe fatto una grande storia. È anche vero che è un giocatore, sì Pierluigi, totalmente d'accordo, è anche vero che è un giocatore estremamente condizionante, quindi non so in questo Napoli o in questa Roma se... Insomma, poteva coesistere con moduli, numeretti, sistemi. Ma manca a tutti noi, anche a Claudio da Firenze, Francesco da Verona, io suppongo, no Claudio? Buongiorno, a lei. Velocemente, non sono un esperto di calcio, no? E quindi voi siete un lei è un problema? No, nel senso che fuori camionista sono molto più bravo a fare una manovra di tir che non a parlare di schemi. Però sono allibito dalla discussione del... la perdita di Zaza, Insigne fuori, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, Insigne va fatto giocare domani sera in tutti i modi, cioè nel senso è lavori sulla testa dei giocatori e quel CT che abbiamo. Cioè, io tifo per l'Inter, no? Naturalmente, essendo di Firenze. Io ovviamente, no? Essendo di Firenze, lei tifa per l'Inter, questo è banale, scontato. È ovvio. Volevo dire, poi vi lascio in pace, ma ho visto l'allenatore come Mourinho ha fatto fare il terzino ai Toro, insomma, voglio dire. Abbiamo paura, abbiamo perso Zacca, che roba è? Abbiamo perso Zanza per Cienza. Insigne deve giocare, inventi qualcosa Ventura. Come si fa a tenere fuori un giocatore in quel modo lì una partita? Che le vuole che dica? Che vuole che le dica? Io penso, ma ripeto, anche a me il dubbio resta. Mi scuso per l'ignoranza, però. Ma davvero, che? Cioè, ma quale? Ma quale? Sta paura di perdere Zaza è una roba inascoltata. No, non è questione di paura di perdere Zaza. Zaza si è fatto male, non va a giocare in Svezia. Si tratta di capire chi giocherà insieme a Immobile, che è giusto che giochi, perché ogni palla che struisce in questo momento la butta dentro. Poi il suo dubbio è anche il mio, poi quelli bravi come Pardo ci spiegano che, o come Mirko Graziano ci spiegano che non è adatto a quel modulo, e quindi rassegniamoci. C'è un elemento oggettivo, cioè non è una antipatia di Ventura, una un motivo c'è, poi si può fare una valutazione e decidere che il talento di Insigne comunque è talmente grande per cui te ne freghi del fatto che non sia l'ideale nel 3-5-1-1 o 3-5-2, oppure puoi fare una valutazione di tipo diverso decidendo di rinunciarci a malincuore. Certo, è tutto chiaro, perfettamente chiaro. Francesco, buongiorno. Buongiorno, allora a me Ibra manca perché almeno ci sarebbe qualcuno che non le lascia interviste scontate come molti giocatori, allenatori e giornalisti. Sì, a me manca non solo davanti al microfono, a me manca anche in campo, perché è uno di quei giocatori che mi eccitano a morire. Per quanto riguarda Insigne, io vorrei, ma capisco che l'età vostra è come la mia, quindi dimentichiamo facilmente, quindi siamo affetti da demenza senile, ma io Insigne Francesco, voi avete dimenticato che Insigne nell'anno da titolare nel 3-5-2 ha fatto diventare Cavani capocannoniere per la prima volta, quindi di che stiamo parlando? Ventura ha una soluzione facile, fa giocare due giocatori napoletani che sono cresciuti insieme, il 3-5-2 gli fa l'assist e quello la butta dentro. Guardi, questo Francesco, facciamo così, tagliamo la testa al toro, chiediamo un parere illustre a Emiliano Mondonico. Buongiorno. Attenti a tagliare la testa al toro. Tagliamola alla vacca, che è meglio. Emiliano, come sta la lepre? La lepre... L'ho intravista ancora l'altro giorno. C'è mezza, mezza Italia che è preoccupata per quella lepre. Ma si è fatta furba perché appena dopo il prato c'è una zona riservata dove non si può cacciare. E la lepre è andata e ha preso casa lì. perciò, ma non c'è mare né montagne, c'è un fosso dove passa l'acqua. Però ha preso casa lì, nessuno. Alla lepre sembrerà il mare. Scusate. Guarda, no, il fosso l'adopera. Però è lì. Adesso non ho ancora capito se è maschio o femmina, perché è chiaro che dovrà avvicinarsi il compagno o la compagna. Perché, sai, quando vivi in quelle situazioni senza pericoli, senza niente, è chiaro che puoi fare una vita abbastanza oziosa, tranquilla, oziosa, e tu sai che l'ozio è il padre dei vizi. Sì, come la storia delle lepre, delle passere. Vabbè, no, comunque niente, Radio 24 è disposta ufficialmente, mi impegno io ad adottare quella lepre e anche un pezzo di fosso. Ci fermiamo per il traffico. Emiliano sta lì, Pierluigi Pardo sta lì, e poi magari parliamo anche di Insigne, volendo. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Tutti convocati. approfittato della viabilità per fare delle rivendicazioni sindacali con Giorgio De Luca, ma queste sono cose che non vi riguardano. Dicevamo Emiliano Mondonico, allora me la spieghi questa di Zaza non gioca? Siamo qui a discutere su Insigne che non può giocare in un attacco a 2 perché deve giocare in un attacco a 3. Io mi fido di voi esperti. Sinceramente non la capisco, però sono problemi miei. Mi dica. Siamo sicuri che Zaza non gioca? Sì, siamo sicuri. Non va neanche in Svezia. Come mai? Perché riacutizzarsi del problema al ginocchio. Cavoli! Quella che dovevo essere la nazionale dell'ignoranza. In questo momento ci stanno togliendo un pezzo determinante. Sai che io avevo una fiducia incredibile su questi due ragazzi davanti. Perché ti leggo cosa ha detto uno di questi due ragazzi. Il mister lo conosco bene, ha solo bisogno di un po' di tempo per passare nelle nostre teste quello che ha in mente. Non è facile. Evviva l'ignoranza! Ma siamo lì, ma immagini aver di fronte due che non sono soggetti a schemi, di fronte a due che fanno dell'istinto sì. la loro prerogativa, ma okay. Il calcio è questo. L'abbiamo capito, questo, ma uno non c'è e quindi giocherà Eder e Insigne non può giocare in attacco a due, no? Mi insegnate. No, Insigne può giocare, parliamoci chiaro. Insigne anche lui adesso in questo momento è tutto pieno di triangoli, di rettangoli, di bisettrici, di sovrapposizione. Adesso, però se sta in camera un paio di giorni con Immobile, secondo me riesce a ristabilire un po' tutto quanto il passato, perché parliamoci chiaro, no? Nel passato non è che Insigne era il re della geometria. Insigne era uno con un istinto pazzesco che ci faceva godere tutti. E non lo so, spiegalo a Pierluigi. Pierluigi cosa dice? No, Pierluigi. Mi piace tantissimo l'immagine di questi due giorni passati con Immobile a ricordarsi il senso primitivo del calcio, no? Il senso più istintivo, a togli la ragione e lasciami, oggi è un giorno di citazioni, togli la ragione e lasciami sognare in pace, un po' Samuele Bersani ci può essere utile in questo, togliere tutta una serie di sovrastrutture bellissime, perché il Napoli di Sarri ha delle sovrastrutture bellissime, è un sistema di gioco che esalta secondo me il talento di Insigne, però è vero pure che Insigne ha talento a prescindere, cioè ha talento anche in una squadra un pochino meno strutturata. Non lo so, io sono d'accordo con quello che diceva Mirko prima, cioè secondo me non c'è un complotto, ci mancherebbe altro, non c'è un'antipatia, non c'è un'avversione personale, c'è semplicemente il fatto che Insigne è più adatto per un altro tipo di modulo. Detto questo, poi la valutazione bisogna farla con grande attenzione, perché comunque è il talento migliore che abbiamo, su questo credo non ci siano grandi discussioni, quindi rinunciare al miglior talento che abbiamo perché non siamo in grado di farlo rendere al massimo nel modulo che ci rende più sicuri è comunque un rischio. Sì, senti Insigne, l'unica cosa che si deve fare è ordinargli, dirgli guarda che metto in fila dei gendarmi che se vieni di qua della metà campo ti sparano, devi giocare nella metà campo avversaria, gioca dove vuoi, vai dove vuoi, ma non tornare nella nostra metà campo. Per favore, non posso vedere una partita dove Insigne gioca di più nella nostra metà campo ma che non tanto in quella non lo degli vedi avversari. Emiliano, non lo vedi, non gioca, no, come te lo devo neanche dire? Lui. No, neanche non ma non gioca Insigne, gioca Eder vicino a Immobile. Eder è intelligente, non lo conosco bene. Eder è un giocatore sì, secondo me è un giocatore ma secondo te nell'Inter in fase offensiva con Icardi c'è molta intelligenza? Sai che secondo me Eder e Icardi si assomigliano un po' Immobile ed Eder, perché anche Icardi non mi sembra un giocatore intelligentissimo, cioè tatticamente parlando, non tiriamo fuori altre cose che lasciamo stare Vandanara orgoglioso di dormire con lui, per carità, di cappello, complimenti, per carità. Veramente, guarda, parliamo tatticamente, ecco, io adesso mi è venuto in mente subito questa idea, Riccardi, così che spesso volentieri negli ultimi 10 minuti si fanno coppia assieme, o addirittura esce Icardi ed entra Der, non so se Icardi esce perché gli sta sulle palle Der, o se invece è una scelta ben precisa. Non è che gioca tantissimo, ecco, Der, io penso che se Der va d'accordo con Icardi va ancora più d'accordo con Immobile, perché Immobile ha qualcosa in più di Icardi. Ok, non è che giochi tantissimo Eder nell'Inter. Bel fresco, dai, che almeno si presenta. Allora, se uno gioca troppo deve riposare, perché lo faccio turno. Se uno gioca poco, perché gioca poco. Se uno gioca poco e non ho i 90 minuti nelle gambe, ma che balle sono? Dai, no, non lo so, dimmelo tu. Ma sì, sono tutte balle, dai, che noi artisti nel fare gli allenatori ogni tanto tiriamo fuori per incutere così magari un po' di pensieri strani. Però parliamoci bene, uno che gioca sempre non può giocare sempre turnover, uno che gioca poco non ha i 90 minuti, ma dove siamo? Alla lotteria. All'otto svizzero, sì, quello delle palline quando eravamo bambini. Grazie, Emiliano. Senti, la lepre la adottiamo ufficialmente noi, ok? Facci sapere. Vi ringrazio. No, ci ringrazio. Adesso piove, sì, è meglio lasciarla là, che ho visto io è sotto un robo. Se domani esce il sole, vado, devo far firmare qualcosa? Alla lepre? No, non è importante. Parla con la sua mamma. Se tutto è a posto, adottiamo l'intera famiglia. Non c'è problema. Farò una corsa con lei e nel far la corsa gli dirò: guarda che ti hanno adottato, se vuoi andare lì. Non avere problemi. No, il problema è Cruciani, che poi Samagna. Non è quello, non siamo noi. Se vai lì, sicuramente non trovi dei conigli. No. Grazie. E questo è già una grande cosa. Ciao Emiliano, un abbraccio. Ciao a tutti quanti. Sarai d'accordo con me, Leopardo? Meglio tenerla lontana da Cruciani. Assolutamente. Se no, Samagna e Salmi. Assolutamente. Non possiamo farci nulla. Senti, amico mio, ci sentiamo domani alle 14 con tutti i convocati. Salto. Va bene, adesso aggiorniamo la seduta ringraziando Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, tutti voi che ci avete seguiti, ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!